Direi iniziamo con la vita di Alberto Marvelli. Alberto Marvelli nasce il 21 marzo del 1918 a Ferrara. Si è da poco conclusa la Prima Guerra Mondiale con il suo grande carico di sofferenze e di morte che ha coinvolto anche la sua famiglia. Lui è il secondo genito di Alfredo e Maria, due sposi come vedremo profondamente cristiani, e a lui seguiranno altri quattro tra fratelli e sorelle. Dicevamo di questi due sposi, dei genitori del nostro beato, possiamo dire veramente dei santi genitori. Lui stesso, Alberto, ricorda il papà 8 anni dalla morte, come vedremo morirà giovane, scrivendo così nel suo diario, questo per darci un'idea della famiglia in cui è nato. Mai dimenticherò la sua vita esemplare, trascorsa serenamente e santamente anche nei momenti dolorosi di maggiore preoccupazione. Fu cristiano nel senso completo della parola, senza mezze misure, senza rispetti umani, senza ostentazione. Sincero, sorridente, sempre in grazia, sereno, ecco la sua vita. Ha seguito sempre la voce saggia della coscienza e non ha esitato a rinunciare ad onori e ricchezze quando il conseguirli poteva appannare solamente la limpida trasparenza dell'anima. Ma anche per la mamma Maria, una donna esemplare nella carità, ci viene detta saggia, stimata davvero per le sue virtù. Questa donna si dedicava molto all'apostolato in parrocchia e insegnava anche catechismo all'oratorio salesiano della sua parrocchia. Anche a lei il nostro beato dedica qualche pagina del suo diario ed è bello, mi fa piacere che, voglio dire, condividerla con voi. Lui parla così della mamma: essa è il nostro angelo consolatore, è la nostra consigliera più preziosa, è la mamma affettuosa e santa che vive solo per i figli, solo alla loro felicità pensa. Con quale bontà ci rimprovera i ritardi e le mancanze, con quanta affettuosa severità sorveglia la nostra vita spirituale e materiale. Sull'esempio di Cristo essa è tutto a tutti, e con i familiari e con gli estranei e con i poveri. Non uno che ha bussato alla nostra porta è stato rimandato a mani vuote. Anche quando non può e cerca di fare economia, per i poveri trova sempre qualcosa. Sempre a serena, conforta e consola chi a lei ricorre. Essa dà senza volere ringraziamenti e gratitudine perché li aspetta solo da Dio. La sua forza nelle prove dolorose che la colpirono, la sua risolutezza nel risolvere le situazioni, la giusta severità e carità nel correggere, le attirano la simpatia, l'affetto e l'ammirazione di quanti la avvicinano. E proprio in effetti, cari amici, Casa Marvelli, possiamo dire, era un centro di carità. Molti erano quelli, allora ce n'erano davvero tanti, che bussavano alla porta di questa famiglia. E nessuno tornava mai, mai a mani vuote. E proprio il nostro beato Alberto e i fratelli vivono e vengono educati in questo clima sereno, cristiano, un clima arricchito dall'amore scambievole, dalla preghiera, soprattutto dalla carità. Arriva però in questa famiglia felice, unita, la prima grande prova. Infatti il papà muore improvvisamente il 7 marzo del 1933, mettendo a dura prova la tenuta e la fede anche di tutta la famiglia, e di Alberto in particolare, aveva 15 anni, ma come vedremo sarà anche un momento di grande maturazione, e poi sarà lui stesso, Alberto, a sostenere la mamma e i fratelli, diventando quasi un secondo padre. Ma il cuore, cari amici, di questo ragazzo è veramente grande, come grande è la sua fede. E non si ferma nel suo cammino, anzi, nella sua parrocchia di Maria Ausiliatrice, tenuta dai Salesiani, c'è un oratorio frequentato da quasi tutti i ragazzi della zona. Allora, caso fa, si iscrive subito alla Gioventù Cattolica Italiana, iniziando a frequentare l'oratorio. E all'azione formatrice della famiglia si aggiunge ora quella dell'oratorio, che avrà un grande influsso sulla sua vita spirituale e apostolica, come vedremo. Nell'ambiente salesiano si vive un'atmosfera allora di grande fervore religioso, di profonda spiritualità, e i salesiani capiscono subito di che stoffa è fatto Alberto. Allora lo impegnano, gli danno fiducia, lo guidano così sulla via della crescita spirituale. A 15 anni è già delegato aspirante e animatore dell'oratorio. E lui non si ferma, lavora col massimo impegno in mezzo ai ragazzi, con l'obiettivo di coinvolgere il più possibile, di far vivere i momenti più importanti della loro crescita in questa bella comunità. E proprio in quel periodo, pensare, circola tra i giovani dell'oratorio la vita di, allora non era ancora santo, di Domenico Savio, scritta proprio da Don Bosco. E quando il 9 luglio del 1933 Pio XI proclama l'eroicità delle virtù di San Domenico Savio, questo fatto influisce profondamente nell'animo di Alberto. Infatti, proprio dall'esempio di questo futuro santo, maturò poi anche in lui l'amore grande per l'Eucaristia, come vedremo, e lo stile apostolico del servizio e del sorriso. Sempre nel 1933-34 inizia anche a frequentare il liceo classico di Rimini, dove risiede la sua famiglia, e si applica allo studio con serietà, con responsabilità. Nella classe emerge per le sue qualità morali e i compagni di scuola dicono che con lui si sta sempre bene. E lui amano la virtù che si manifesta non solo a parole, ma con una presenza vera, grande e con lo slancio sincero con il quale si presta a fare favori a tutti. Pensate, è stato suo compagno di liceo anche il giovane Fellini, il futuro grande regista, che era di qualche anno più giovane di Alberto. La cosa che forse non sappiamo è che in un cassetto della scrivania di questo regista, dopo la sua morte, furono trovate accanto alla classica foto di classe anche alcune immagini di Alberto Marvelli, che lui, Fellini, aveva sempre stimato, interessandosi da vicino anche al suo cammino verso la beatificazione. Ma tornando al nostro beato, riguardo al suo cammino spirituale, oltre alle lettere, dicevo, lo scritto più importante che possediamo è proprio il suo diario, pubblicato dopo la sua morte. Questo diario, pensate, l'aveva iniziato a 15 anni, nel 1933, quindi poco dopo la morte del papà, e adesso affidava pensieri, riflessioni e preghiere. E scrive così all'inizio: voglio scrivere un piccolo schema di quello che dovrà essere la mia vita spirituale. Alla mattina orazioni e, se possibile, un po' di meditazione. Una visita giornaliera in chiesa e il più possibile frequentare i sacramenti. O, se mi riuscisse, di comunicarmi tutti i giorni. Recitare invece ogni giorno il Santo Rosario. Non cercare in nessun modo occasioni di male. E alla sera orazioni, meditazione, esame di coscienza. Vincere i difetti più grossi, la pigrizia, la gola, l'impazienza, la curiosità e tanti altri, e invocare l'aiuto di Gesù in ogni momento difficile. In particolare, gli stava molto a cuore la purezza, e questa conquista non fu facile, cari amici, ma per raggiungerla seppe mettere in atto tutti i mezzi naturali e soprannaturali di cui disponeva. Scrive a questo proposito: vivere in purezza. Come si apprezza questa virtù in mezzo a tanto fango? Ma è difficile conquistarla? È difficile per chi crede riuscirci coi mezzi umani, ma per chi si alimenta alle sorgenti inesauribili della grazia e dell'amore, sorretto dall'Eucaristia, dalla meditazione e dalla volontà, essa è irraggiungibile. il nostro beato, cari amici, desiderò e guardò alla purezza sia per una piena comunione con Dio, ma anche per una ancora più piena adesione al Vangelo. E ne parla spesso nel suo diario, quando scrive: «Un cuore puro gusta le gioie dell'anima, dell'unione intima e continua di Dio, della contemplazione delle sue sembianze sotto forma del Santissimo Sacramento. Che mondo nuovo, formato di impressioni infinite per dolcezza e potenza, ma al medesimo tempo così certe della loro origine, mi si è aperto contemplando Gesù sacramentato. Io mi rivolgo a te, Padre di misericordia, Agnello di Dio, perché sappia mantenere il mio cuore puro, candido, splendente, che la luce divina e soprannaturale irradi il mio cuore, lo avvolga nel suo alone splendente, lo circondi col suo profumo celeste, lo irrori con l'acqua viva e la rugiada vivificante, lo protegga dalle tenebre del mondo e del peccato, lo difenda dalle insidie del demonio, lo sospinga alle più eroiche virtù». E pensate, un suo compagno di classe, Giorgio Torri, dice a questo proposito: «Dal suo contegno disinvolto e correttissimo e dalla sua espressione angelica, angelica del suo volto e del suo sguardo, appariva quanto fosse vera e autentica la sua purezza di cuore e di condotta». E arriviamo così, cari amici, nell'agosto del 1935. Lui ha 17 anni e passa un mese in montagna in Val Gardena. La prima volta che vede la bellezza delle Dolomiti, e di fronte a questa bellezza, alla maestà delle vette, ai fiori che colorano i prati, l'amore di questo cuore tocca proprio le altezze più sublimi di Dio e del paradiso, e le descrive così: «La montagna, se io non amassi Dio, credo che arriverei ad amarlo stando in montagna. Che pace, che serenità, che bellezza. Tutto ci parla di Dio, delle maestose vette, dei prati verdi, dall'umile fiorellino celeste, dal cielo tempestato di stelle alla cascatella che esce gorgogliante dalla roccia. È impossibile non riconoscere l'opera del Creatore. Solo un Dio infinitamente grande e misericordioso poteva creare cose tanto belle. L'anima è rapita in contemplazione», scrive, «dimentica di essere in terra e pregusta il paradiso». Nel frattempo, finito appunto il liceo, si iscrive anche all'Università di Bologna, alla Facoltà di Ingegneria Meccanica, entrando subito nella FUCI. La FUCI era ed è ancora oggi la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, e qui fa molto apostolato. Durante l'università però in estate lavora, perché le scarse risorse economiche della famiglia, dopo la morte del papà, non gli permettono di essere mantenuto agli studi. Quindi, come molti altri studenti, lavora negli stabilimenti saccariferi della zona durante il periodo della raccolta delle barbabietole da zucchero. E finalmente, il 30 giugno del 1941, quindi dopo 5 anni di università, consegue la laurea. È felicissimo di questo traguardo, ma l'aspirazione profonda del suo cuore resta sempre la santità. Proprio, cari amici, questo grande desiderio di santità che lui voleva perseguire lo vede impegnato in un programma di vita, possiamo dire, rigoroso ma anche umilissimo. E faccio parlare lui a questo punto, perché è lui che ci dice, che dice quello che desidera fare, lo chiede al Signore con desiderio grande di riuscire in questo cammino di santità, di essere di piacere a Lui e soltanto a Lui. E lui scrive così, scrive delle bellissime frasi che sicuramente ci aiutano anche a meditare il nostro essere, diciamo, di ogni giorno. Scrive così: «Il silenzio è il mezzo ottimo per santificarsi, per non dire sciocchezze e commettere meno peccati, per abbassare l'orgoglio, esercitare l'umiltà e la pazienza e imparare a conversare con Dio. Devo assolutamente vincere i miei scatti di impazienza e usare invece con tutti un'amorevole pazienza e una carità ardente. Prima di agire devo pensare a quello che faccio e devo altresì considerare come io mi sarei comportato trovandomi nella tale occasione. Devo assolutamente perdere il vizio di giudicare il prossimo se non voglio poi essere giudicato da Dio. In caso di necessità, ricordarsi della carità cristiana, della misericordia di Dio, delle condizioni particolari in cui il prossimo viene a trovarsi. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E soprattutto aiutare i poveri, i derelitti, il più possibile, materialmente e spiritualmente. La carità, scrive, sia un altro cardine del programma di vita. Combattere la curiosità inutile che non porta alcun vantaggio. Alzarmi poi alla mattina il più presto possibile. Fare ogni mattina mezz'ora di meditazione senza mai tralasciarla. Mezz'ora al giorno di lettura spirituale. Ascoltare ogni mattina la Santa Messa e accostarmi sempre ai Santi Sacramenti. Confessarmi usualmente una volta alla settimana e recarmi dal direttore spirituale molto spesso. Recitare ogni giorno il Santo Rosario e dire l'Angelus al suono del mezzogiorno e dell'Ave Maria. Questo scrive in breve il programma della mia vita a cui voglio attenermi da oggi, 22 settembre 1938, praticamente va 20 anni. E conclude: prego il Signore con tutta l'anima che mi voglia aiutare a metterle in pratica continuamente. Se dovessi mancare, Dio voglia che mi riprenda subito, onde poter migliorare e dimostrare in tal modo a Dio la mia riconoscenza per quanto Egli fa per me, continuamente, per il bene che mi ha voluto, per il dolore che ha sofferto per me. Morire ma non peccare. Morire ma non peccare è una frase ricorrente, soprattutto proprio di San Domenico Savio, da cui lui prende spunto. E poi a questo segue anche una bellissima preghiera breve che lui ha composto, ma che ci dà l'idea della trasparenza e della bellezza di quest'anima e dell'amore che ha per Gesù. È un amore veramente grande, appassionato. E lui prega così: o Gesù, che leggi nel mio cuore, che vedi gli sforzi per amarti, che cerco di riceverti tutti i giorni in me, affinché tu con la tua santa e misericordiosa presenza purifichi e santifichi l'anima mia, aiuta questo povero peccatore che si prostra ai tuoi piedi a chiederti perdono. Infondi in me pensieri puri, santi, pazienti. Visitami pure con la croce, Gesù, che sono lieto di aiutarti a portare per il bene del prossimo e della mia povera anima. Fa che non cada in tentazione e che mantenga le promesse che continuamente rinnovo ai tuoi piedi. Solo col tuo aiuto e con quello della Vergine e dei Santi tutti potrò tendere verso quelle mete luminose che qualche volta intravedo ma che sono così lontane, lontane. Voglio, Gesù, farmi santo, aiutami e soccorrimi tu. E se il suo primo impatto formativo, escluso fuori dalla famiglia, fu come abbiamo visto con l'oratorio salesiano, e invece proprio nell'azione cattolica, azione cattolica come la pensò e la volle anche Papa Pio XI negli anni del suo pontificato, che il nostro Beato realizza la piena maturazione del suo cammino spirituale. Alberto amò intensamente Papa Pio XI, anche perché fu il Papa della sua giovinezza e fu anche la guida della sua vita. Ai suoi insegnamenti si attenne sempre con un atteggiamento filiale e devoto. Lui aveva aderito all'Azione Cattolica quando aveva 12 anni, quindi siamo nel 1930, e qui rimase fino alla morte. Una militanza lunga, attiva, responsabile, soprattutto con grande entusiasmo. Com'era nel suo carattere, non aveva mezze misure, cioè non c'era il grigio, era bianco, era nero. E capita l'importanza dell'associazione, vi spese allora tutte le energie e tutto il suo tempo libero. Anche lontano da Rimini, a causa degli studi, del lavoro, poi come vedremo della vita militare, lavorava sempre per l'Azione Cattolica, dicendo: come giovane di Azione Cattolica è mio obbligo fare dell'apostolato continuamente ovunque. L'esempio di San Paolo, il suo infaticabile sforzo per convertire il mondo a Cristo, sopportando tanti dolori, deve spingere me a non temere qualche piccolo sacrificio. E la sua preghiera era sempre in piena sintonia con l'azione. Possiamo dire, cari amici, che tutta la sua vita era preghiera, perché viveva veramente in continua unione con Dio. Era una vita, possiamo dire che la sua vita era un atto di amore a Dio. E Alberto Marvelli era convinto che l'azione apostolica non fosse sufficiente, non bastava per sostenere tutta la vita spirituale. Cioè che non basta lavorare per il Signore, ma bisognasse dedicare molto tempo alla preghiera sincera, alla preghiera del cuore. E per essere aiutato proprio nel suo cammino verso Dio, cerca allora, ora adesso che è più grande, modelli e testimoni di vita cristiana. Cosa vuole fare? Vuole confrontare la sua vita con la loro per capire e per avere anche nuovi stimoli alla santità. Lui leggeva molte vite di santi, ma una particolare sintonia la vede proprio con Pier Giorgio Frassati, del beato attuale Pier Giorgio Frassati, di cui legge molte volte la biografia. E proprio nel marzo del 1936 scrive nel suo diario: «Domani compio 18 anni e propongo in tutto di essere più buono, mi sforzerò di imitare Pier Giorgio Frassati». E intende imitarlo soprattutto nella carità, nella fede, ma anche nell'amore ai poveri e anche, come sarà, come vedremo anche per un breve periodo, nell'impegno politico. E molte pagine di questo bellissimo diario che lui ha scritto ci danno una misura della sua vita interiore, ma soprattutto indicano, ecco, nell'Eucaristia questa fonte meravigliosa da cui attingere forza e energia per questo impegno instancabile verso gli altri. Aveva iniziato a ricevere l'Eucaristia ogni giorno, forse già a 15 anni, abbiamo visto si confessava tutti i sabati, anche aiutando nel servizio della Messa. Aveva però soprattutto una piena coscienza della grandezza del mistero eucaristico e dopo aver ricevuto la comunione durante la Santa Messa si fermava a lungo in chiesa, in ginocchio, raccolto, fermo, proprio veramente innamorato del corpo e del sangue di Gesù. Non c'è per lui, possiamo dire, gioia più grande sulla terra della contemplazione di Gesù, ricevuto nel proprio cuore. E lui a questo proposito sinceramente scrive: che cosa sono i divertimenti del mondo in confronto alla gioia che tu procuri a chi ti ama, Gesù? Che cosa sono il piacere, il divertimento fittizio in paragone del puro e sublime benessere che uno prova contemplandoti e ricevendoti in se stesso, nel suo cuore? Tutto e men che nulla. E proprio, cari amici, attraverso l'Eucaristia entra in profonda intimità con Gesù in una preghiera, possiamo dire, fatta di silenzio, di ascolto in modo particolare. È un cuore che arde d'amore proprio per il Signore. E scrive proprio, da questo amore che trabocca, scrive questa preghiera. La luce dice che entra in me con Gesù Eucaristia, brilli sempre e faccia splendere il mio sguardo. Il fuoco che arde mi consuma, l'ardore che mi brucia, l'amore che il Signore così grande mi infonde per Lui e per il prossimo non diminuisca, non si affievolisca, ma si ingigantisca senza fine, sempre, continuamente. Gesù vive in me, Gesù è nel mio cuore. Gesù lascia il cielo per entrare nel mio indegnissimo corpo. Gesù, dammi la tua volontà, la tua fermezza nei propositi, il tuo amore immenso per gli uomini e le loro miserie, il tuo senso totale e soprannaturale di apostolato. Come vediamo, l'Eucaristia era al primo posto, un amore grande, e dopo l'Eucaristia arrivava la sua tenerezza, si effondeva sulla Madonna. Aveva un amore grande anche per la Madonna e Madre mia, fiducia mia, questa era l'invocazione che Alberto Marvelli recitava più e più volte, facendo scorrere tra le dita la corona del rosario. E proprio anche il suo amore per la Madonna è un tratto caratteristico della sua vita spirituale, anche della sua preghiera. Da quel lontano giorno, pensate, era l'8 dicembre del 1934, era morto da un anno il papà, quando a soli 16 anni scrive nel diario: questa mattina ho consacrato il mio cuore alla Madonna Immacolata. E proprio anche il suo cammino spirituale è posto sotto la protezione di Maria Santissima. Recitava ogni giorno il Santo Rosario con una devozione particolare, non solo nella sua famiglia, ma lo recitava anche nelle famiglie di amici, oppure anche in bicicletta quando era solo. E anno dopo anno arriviamo anche al 1939, l'anno terribile in cui arriva la scure della Seconda Guerra Mondiale. Vani purtroppo, come sappiamo, sono gli appelli accorati alla pace di Papa Pio XII. E lui il 31 gennaio del 41 scrive: siamo in guerra da 8 mesi. Tutti gli uomini parlano di pace, desiderano la pace, ma pochi sono quelli che, come il Papa, lavorano per essi, per mantenerla, per farla ritornare. Quante vite che si sacrificano, quante giovinezze versano il loro sangue, quanti dolori che si rinnovano. E anche lui dovette subito presentarsi, pensate, lui si era laureato a giugno, già a luglio si presentò al distretto militare di Forlì per la visita medica e 3 giorni dopo partì per Trieste per prestare servizio militare in qualità di allievo ufficiale. Certo, il distacco dalla famiglia e dagli amici fu doloroso anche per la lontananza del luogo e anche la disciplina militare non gli avrebbe poi consentito una costanza e continua presenza a Rimini. Ma anche qui in caserma continua però il suo intenso apostolato. Voi pensate che in pochi mesi riesce a far cambiare molte cose. Essendo l'istruttore responsabile dell'educazione dei soldati, vince purtroppo il vizio della bestemmia e l'immoralità di molti commilitoni. Risveglia anzi in tanti il senso della fede riportandoli alla Santa Messa Domenicale, addirittura anche degli ufficiali, ad accostarsi anche alla Santa Comunione che lui spiegava. Nel frattempo, nella sua amata Rimini, il 1 novembre del 1943, molti cacciabombardieri inglesi rovesciavano sulla città praticamente indifesa e priva di rifugi sicuri, una valanga di bombe riducendola ad una città morta. Non vengono risparmiati ospedali e case di cura, nonostante i contrassegni ben visibili, e la gente scappa dalla città, sfolla, e molti si fermano nei paesi di periferia, altri fuggono più lontano. molti dicevamo dei riminesi scappano, vanno lontano, e anche la famiglia di Alberto va a Vergiano, una collina a 5 km dalla città. Alberto, che nel frattempo era rientrato a Rimini, comincia qui un'intensa opera di assistenza morale e materiale agli sfollati. È un continuo pellegrinare in bicicletta da Vergiano a Rimini dopo ogni bombardamento per portare aiuto ovunque ce ne fosse bisogno. E proprio da ogni bombardamento era il primo a correre in aiuto, in soccorso. Si prodigava per soccorrere i feriti, incoraggiare i superstiti, dare loro una speranza, assistere soprattutto cristianamente i moribondi, sottrarre dalle macerie quelli che erano rimasti o bloccati o sepolti vivi, aiutare i feriti. La sorella Gede allora aveva 13 anni e racconta di lui. Durante l'occupazione tedesca faceva la spola fra Vergiano e Rimini per servizi dei sinistrati e degli sfollati, ritornando a casa a sera, e trovava sempre persone che l'attendevano per avere il suo aiuto, ma non ricordo di averlo mai sentito sbuffare o lamentarsi. La mamma mi diceva che tutte queste occupazioni non lo distoglievano dal suo impegno di vita spirituale e che non andava a riposare senza aver recitato il rosario inginocchiato accanto al letto, come non lasciava mai la Santa Comunione. Nel frattempo, le tante persone sfollate sulle colline attorno a Rimini guardano a San Marino perché era neutrale, quindi poteva dare maggiori garanzie, e si spostano in questa piccola repubblica, come fa anche la famiglia di Alberto. E qui, dopo aver messo al sicuro la famiglia, lui stesso fa più volte il tragitto Rimini-San Marino a piedi per condurre al sicuro altre famiglie rimaste allo scoperto, quindi nella città. E ogni sera qui a San Marino, nei cameroni o nelle affollatissime gallerie dove c'era moltissima gente, lui era un po' il papà di tutti. Iniziava a recitare ad alta voce il rosario e poi tutti lo seguivano. E proprio il rosario, questa preghiera, calmava, infondeva coraggio, dava speranza. La Madonna era presente in quel momento in modo veramente forte. Poi, stanchissimo, si ritirava per riposarsi anche se per poche ore. E così, insomma, dopo tanta sofferenza, arriva anche il sospirato momento della liberazione, ma la città è allo sbando e senza guida. In questa situazione la resistenza riminese dà un grande contributo, sostituendosi alle autorità pubbliche non ancora costituite. Quindi la giunta del Comitato di Liberazione Nazionale prende, diciamo, la guida della città e nomina a sorpresa fra gli assessori della giunta proprio Alberto Marvelli. Lui non è iscritto a nessun partito, non è stato neanche partigiano, ma tutti hanno visto, riconosciuto e apprezzato il grande ed enorme lavoro di assistenza che aveva fatto per tanti riminesi. È giovane, ha solo 26 anni, no? Ma proprio questa concretezza nell'affrontare i problemi, il coraggio nelle situazioni anche più difficili e la sua grande disponibilità, un cuore aperto a una carità senza limiti, lo rendono meritevole di assumere un compito così impegnativo. E come vedremo lo sarà e come. Non vi sono solo case da ricostruire perché bombardate, oppure servizi da ripristinare, cari amici, ma c'è una città, che è quella di Rimini in quel momento, come tante altre, che deve ritornare a vivere democraticamente ed è in quel momento percorsa purtroppo da sentimenti di violenza e di intolleranza. E proprio a lui tocca il compito di dirigere la commissione comunale per gli alloggi. Lo scopo, cari amici, era di disciplinare allora l'assegnazione degli alloggi a Rimini, comporre anche, diciamo, gli scontri, le vertenze tra proprietari e affittuari, requisire anche appartamenti, eseguire accertamenti sugli alloggi disponibili. Ma proprio quello degli alloggi da liberare, dei fabbricati da riparare e degli sfollati da sistemare fu il problema più grave che la Rimini del dopoguerra dovette affrontare. Fu una cosa enorme, ma Alberto fu l'anima di questo immenso e difficile lavoro. Proprio la sua competenza, dicevamo, ma la sua concretezza lo portavano a cogliere subito le situazioni, ma anche a trovare la soluzione più giusta e a metterla in atto. Per la sua serietà professionale e anche per il suo impegno generosissimo, era stimato da tutti, qualunque fosse di destra, di sinistra, di centro. Era un ragazzo, dicevamo, l'abbiamo visto, pieno di fervore, dinamico. Era solito non fermarsi mai, non arretrava davanti alle difficoltà, ma tutto metteva nel cuore del Signore e poneva il tutto davanti all'intercessione della Madonna. E quello che era lui allora ce lo racconta proprio una testimone, che allora era una ragazza. Si chiama Piera Ceccarelli e testimonia così. Una mattina da Bergiano, cioè da questo paese in cui erano sfollati, da Bergiano dove eravamo sfollati, sono venuta a Rimini all'ufficio alloggi. Appena arrivata mi sono trovata fra tanti che questionavano per essere ricevuti, erano centinaia e centinaia le persone. Passato il mezzogiorno, un usciere dice: si chiude, tornate domani. Mi sentivo disperata, avevo fatto tutta la strada a piedi, mi misi a piangere. Ma Marvelli dall'ufficio disse: perché chiudete? Non va via nessuno, ricevo tutti. Poi uscì dall'ufficio, mi vide, mi venne incontro e mi disse: perché piangi? E mi fece una carezza. Fra le lacrime gli esposi il mio caso, che era abbastanza drammatico. E lui rispose: ma non siamo qui per aiutarti, perché ti disperi? Vedrai che tutto si aggiusterà. Va a Bergiano tranquilla e torna fra una settimana, come in effetti sarà sistemata in un alloggio. Ma non solo, lui andava anche oltre questo tipo di, diciamo, questa sua lungimiranza, soprattutto questa grazia che gli faceva vedere al di là, diciamo, del momento, lo fa, diciamo, lo porta all'attenzione del partito politico allora, che era la Democrazia Cristiana. Siamo nel 1945, quando Benigno Zaccagnini gli propose di lavorare proprio all'interno del partito. Lui rispose che non aveva obiezioni di principio, che ci avrebbe riflettuto, ma che si sentiva già molto impegnato in un'azione più concreta e immediata sul piano della carità. Era proprio il grande lavoro che stava svolgendo a Rimini nell'assessorato. Ci pensò però alcuni giorni, quasi sicuramente ne parlò col vescovo come faceva di solito, alla fine accettò, ma non volle mai nessun compenso, cioè il suo mettersi al servizio non del partito ma del popolo, perché lui la vedeva in questo senso, come vedremo, era un atto suo, un desiderio suo profondo di carità nei confronti dei fratelli. E inizia questo lavoro nel partito in un momento particolarmente difficile, insomma la lotta tra i partiti allora era più accesa di oggi e spesso degenerava in risse vere e proprie, ed erano molti. Voi pensate che si abbattevano i pulpiti, veramente si abbattevano i pulpiti degli oratori, si tagliavano i fili degli altoparlanti. Insomma, ricordiamo Peppone Don Camillo e uno spaccato della società di allora, a livello politico. E lo scontro frontale avveniva soprattutto però tra i due grandi partiti popolari, una era la DC e l'altro era il Partito Comunista. Ma anche in questa atmosfera così, insomma, non favorevole al dialogo, lui sapeva sempre trovare l'atteggiamento giusto. Quello che colpiva di più però in questo suo atteggiamento era la pacatezza. Uno si arrabbierebbe, no? Invece lui aveva questa pacatezza con cui riferiva agli altri episodi di gravi interferenze, di gravi ingerenze, anche gravi faziosità degli avversari, che erano giunte anche a via di fatto, anche fisicamente, per tentargli per impedirgli di parlare. Insomma, fare comizi non era un mestiere facile. Si doveva procedere tra fischi, urla, provocazione, e poi spesso, molto spesso purtroppo, si veniva anche alle mani. Ma per lui la politica era un'altra cosa. Dicevamo, la politica per Alberto Marvelli era amore. Potrà far sorridere questa cosa, ma è veramente così. Era amore, era, lui diceva, l'estrema conseguenza della carità sociale e anche strumento di verità. Perché la politica è quella che dovrebbe servire, dico dovrebbe, uso il condizionale, dovrebbe servire il popolo. Ma perché dico questo? Lui, praticamente, abbiamo parlato prima di Pio XI, no? lui metteva in pratica quello che nel lontano 1927, proprio Pio XI, parlando ai giovani universitari, aveva detto questo: il campo politico è il campo di una carità più vasta, la carità politica. Quindi servire gli altri. Intanto però la guerra ha lasciato sulla strada allora molti relitti umani, poveri, sbandati, senza tetto. E sull'esempio di quanto aveva fatto Giorgio Lapira, attualmente venerabile, Giorgio Lapira a Firenze, Alberto organizza anche a Rimini la messa e la mensa del povero. E comincia la domenica 9 dicembre 1945. Non c'erano mezzi e la cassiera del gruppo era preoccupata, ma Alberto le disse: cominciamo con la questua in chiesa per raccogliere, diciamo, qualcosa, poi vedremo. E cominciarono così. A volte però, insomma, i poveri erano tanti, spendevano tanto, quindi i deficit erano piuttosto corposi, ma lui non si fermava. Vi verranno i denari, diceva, di che cosa avete paura? Date pure, aiutiamo i poveri, diamo tutto quello che abbiamo. E infine a Pasqua organizzò il pranzo per tutti i poveri, che ormai erano diventati centinaia e centinaia. Questa sua, diciamo, questo suo servizio, questo suo donarsi proprio, diciamo proprio donarsi totalmente, in modo particolare ai poveri, di questa cosa ce ne dà testimonianza Benigno Zaccagnini, che era diventato praticamente suo amico, e ci dice questo: i suoi poveri erano sempre con lui, alimentavano la sua fame e sete di giustizia, caratterizzavano il suo stile di vita, austero, concreto e sobrio. Nessuna traccia in lui di ambizione, ma una disponibilità totale di donarsi, dimenticando se stesso. Negli ultimi serviva il Signore. Erano con lui specialmente nei momenti della preghiera, del suo dialogo con Dio, al quale si levava portando nel cuore, in intima comunione e vicinanza, i fratelli più cari. Ecco, ci viene spontaneo pensare, un ragazzo così è votato ed è chiamato al sacerdozio. Non è così. Se la sua vocazione, quello che lui sentiva nel cuore come vocazione, era il matrimonio. E Marilena era una ragazza che era la primogenita di una coppia di signori di Lecco, che lui aveva conosciuto durante una vacanza al mare. Tra i due era nata subito una forte simpatia, che Alberto però aveva tardato a manifestare per questa sua naturale riservatezza, ma lui voleva anche chiarire prima a se stesso la sua vocazione, non era sicuro all'inizio. Ora lo è e sente che Marilena può diventare sua moglie e di lei riempie le sue preghiere. A lei corre il suo pensiero quando, per esempio, è via da Rimini e sente la nostalgia della casa e degli amici. Ma, come spesso succede, anche qui c'è una delusione, perché Marilena, pur volendogli molto bene come un fratello, pur stimandolo molto, non ricambiò con lo stesso sentimento. Quindi la cosa praticamente si chiuse in questo modo. E arriviamo così in quello stesso anno, siamo a sabato 5 ottobre 1946, Alberto aveva iniziato la giornata ricevendo l'Eucaristia nella sua parrocchia e nel pomeriggio aveva tenuto un comizio a Miramare. La sera tornò a casa, mangiò in fretta, doveva tenere un altro comizio, l'ultimo durante la sera tardi. Salutò in fretta la mamma e saltò sulle biciclette. Erano le 8:30 di sera. A 200 metri da casa fu investito da un camion militare che andava a velocità folle. Lo colpì al capo con il gancio della sponda laterale, scaraventandolo contro il muretto di cinta di una villetta. Fu subito soccorso, ma inutilmente. Morì così, aveva 28 anni questo ragazzo. La mamma corse subito con il fratello Giorgio e lo assistette con un coraggio e una fortezza eccezionali durante le due lunghe ore di agonia, fino alla morte, che avvenne senza che lui riprendesse conoscenza. A questo proposito ci dice due parole proprio una signora che era presente, la maestra Frangipane, guardando la mamma gli piangeva il cuore e disse così: morì fra le braccia della madre che in quella circostanza mostrò una fortezza eroica. E quando anche l'ultimo respiro cessò in un'angoscia senza lacrime, la madre disse: perché, signore? Il funerale si svolse così il martedì 8 ottobre 1946 nella chiesa dei Salesiani e c'era tutta la città di Rimini. Al passaggio della bara si abbassavano le saracinesche dei negozi in segno di rispetto, tutte le campane delle chiese della città suonavano e la gente ai lati della strada si inginocchiava e piangeva e tra la folla, pensate, molti poveri, alcuni di loro disperati, dicevano: chi ci aiuterà adesso? Ma la sua fama di santità e la venerazione crescente venne attestata da molti, che senza esitazioni già lo proclamavano santo. Ed è stato talmente luminoso quell'esempio che Giorgio La Pira disse di lui in quei giorni: a me pare che mettere sul candelabro questa lampada risponda alle esigenze più pressanti della Chiesa oggi, perché il problema delle generazioni nuove è oggi fondamentalmente quello della loro vita interiore, del loro modo di unione con Dio, della vita della grazia. E non è tutto qui il senso della testimonianza cristiana di Marvelli? Mostrare questa testimonianza, dice La Pira, situare sul candelabro questa lampada di gioia e di purità, perché faccia luce e testimoni un'esperienza tanto marcata in mezzo al mondo d'oggi, non è cosa urgente, è quasi necessaria. La Chiesa, conclude, potrà dire alle generazioni nuove: ecco, io vi mostro cos'è l'autentica vita cristiana nel mondo. Per concludere, cari amici, questa bellissima vita, vi racconto anche il miracolo che l'ha portato alla beatificazione e lo racconta proprio chi l'ha ottenuto, il professor Tito Malfatti, medico chirurgo specializzato in otorino-laringoiatria e primario dell'ospedale Bentivoglio di Bologna. Il professor Malfatti testimonia così: era una calda giornata di giugno del 1990, stavo seduto comodamente a tavola con mia moglie e mio figlio per il pranzo, quando ho avvertito improvvisamente un dolore acuto all'anca sinistra che si irradiava verso la coscia. Dopo qualche ora il dolore si affievolì per riprendere poi bruscamente nei giorni successivi. Pensai subito ad un'artrite dell'anca, mi curai con i comuni antireumatici e antidolorifici, ma dopo poche ore dalla somministrazione dei farmaci il dolore riprendeva. Anche a riposo a letto non avevo tregua, zoppicavo vistosamente. Il salire e scendere dell'automobile, curvando leggermente la schiena, mi provocava un dolore insopportabile. Mi erano preclusi sia la bicicletta che l'autobus. Mi sottoposi a diverse cure, ma senza beneficio. Consultai i migliori specialisti in materia. Erano discordi su cure e interventi chirurgici, ma nessuno mi dava speranza di una completa guarigione. I muscoli della coscia intanto si stavano atrofizzando e si notava già un assottigliamento rispetto all'altro arto. I dolori continuavano immutati e la mia attività lavorativa si era molto ridotta. Non riuscivo quasi più a stare seduto e l'automobile era diventata per me uno strumento di tortura. Viste le mie condizioni di inabilità, la direzione sanitaria del mio ospedale mi concesse un mese di riposo. Ero molto preoccupato, non sapevo cosa fare. La diagnosi era una spondilosi diffusa con diminuzione degli spazi fra la terza e la quarta vertebra lombare, con una cospicua ernia discale mediana e paramediana sinistra. Poco dopo, però, una seconda ernia discale fu riscontrata tra la quarta e la quinta vertebra e ulteriori esami clinici evidenziarono anche una terza ernia discale. Confermo che calando pian piano la fiducia nei rimedi umani, ho cominciato a rivolgermi con insistenza al Signore affinché mi aiutasse, permettendomi così di continuare il mio lavoro che altrimenti avrei dovuto sospendere. Fu con questo spirito, dice il professor Malfatti, che mi avvicinai nell'agosto del 1991 alla tomba del servo di Dio. La preghiera mia, di mia moglie e di mio figlio fu molto persistente, anche perché ritornati a casa non abbiamo mai smesso di impetrare l'aiuto del servo di Dio. Evidente dice che la preghiera fatta a Marvelli aveva la finalità di ottenere da parte sua presso il Signore la possibilità di vedere soddisfatta la mia richiesta, che non era quella di guarire dalla malattia, quanto piuttosto di essere liberato da quel dolore che mi impediva ogni attività e poter riprendere il lavoro. Io cominciai a rendermi conto che le mie preghiere erano state accolte quando a fine agosto e primi di settembre avvertì la scomparsa graduale dei dolori che per più di un anno mi avevano afflitto e poté riprendere la mia attività senza avvertire dolori di sorta. Allora, la consulta dei medici della Congregazione delle Cause dei Santi affermò che questa guarigione abbastanza rapida, completa e duratura per quanto riguarda la sintomatologia era scientificamente non spiegabile. Da qui Alberto Marvelli venne beatificato da San Giovanni Paolo II il 5 settembre del 2004 a Loreto. E concludo proprio con le poche parole che il Santo Padre rivolse alle centinaia di migliaia di persone presenti quel giorno riguardo ad Alberto Marvelli. E disse così Giovanni Paolo II: «Giovane, forte e libero, generoso figlio della Chiesa di Rimini e dell'Azione Cattolica, ha concepito tutta la sua breve vita come un dono d'amore a Gesù per il bene dei fratelli. Gesù mi ha avvolto con la sua grazia», scriveva nel diario. «Non vedo più che lui, non penso che a lui». Alberto aveva fatto dell'Eucaristia quotidiana il centro della sua vita. Della preghiera cercava ispirazione anche per l'impegno politico, convinto della necessità di vivere pienamente da figli di Dio nella storia per fare di questa una storia di salvezza. E dice il Papa: «Nel difficile periodo della Seconda Guerra Mondiale, che seminava morte e moltiplicava violenze e sofferenze atroci, il beato Alberto alimentava un'intensa vita spirituale, da cui scaturiva quell'amore per Gesù che lo portava a dimenticare costantemente se stesso per caricarsi della croce dei poveri». E Giovanni Paolo II ha fissato la celebrazione della festa liturgica del beato Alberto Marvelli al 5 ottobre. Il suo corpo attualmente nel 72, è stato traslato dal cimitero di Rimini all'interno della chiesa di Sant'Agostino a Rimini, dove, cari amici, continua instancabile e piena di devozione la venerazione di tanti fedeli. Bene, bene, cari amici, allora abbiamo concluso, non riusciamo a fare le telefonate, ma l'importante è avere presentato questa bellissima vita che c'è davvero di tanto esempio. Io vi do, se desiderate, ecco, il numero del telefono della Chiesa di Sant'Agostino a Rimini, se desiderate chiedere immaginette o preghiere o quant'altro. Il numero è 0541 78 12 68. Lo ripeto, è la chiesa di Sant'Agostino a Rimini dove riposa il corpo del beato Alberto Marvelli, al quale potete telefonare naturalmente. Il telefono è 0541 78 1268. Oppure, se desiderate avere, diciamo, biografie e quant'altro, potete mandare un'email. Io ve lo do così. Allora è infocentromarvelli@gmail.com. Lo ripeto: infocentromarvelli@gmail.com. Il centro Marvelli è fatto da devoti del nostro beato che ne propagano la devozione e anche, diciamo, facendolo conoscere in ogni parte in Italia e anche nel mondo. Quindi ben volentieri vi manderanno poi, se lo chiederete, diciamo, biografie e quant'altro. Infine chiudo, vi do solo un paio di libri, se desiderate, sono, diciamo, quelli, ce ne sono molti, però vi do questi due. Uno è Alberto Marvelli, l'ingegnere manovale della carità, edizioni paoline, è scritto da Monsignor Fausto Lanfranchi. Ve lo ripeto, allora, un libro è Alberto Marvelli, L'ingegnere manovale della carità, edizioni paoline di Monsignor Fausto Lanfranchi. Invece l'altro è sempre delle edizioni paoline ed è Alberto Marvelli, Il diario e lettere, il diario da cui abbiamo attinto buona parte della vita di questa sera. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, rinnovo i miei più cari auguri di buon anno e a Dio piacendo ci sentiremo il primo lunedì di febbraio per vivere insieme la vita di un altro grande santo. Un abbraccio a tutti da Angelo. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.